Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Alla lezione successiva, appena seduto al tavolo pronto a fare un tema, lei mi guardò e mi disse: Marco, ho capito che cosa ti serve. E caspita, l'aveva capito davvero. Non so come, ma mi ha insegnato a scrivere. Sì, io quella donna alta 1,60 m, magra, come un filo d'erba, e leggermente zoppa. Oggi l'amo ancora. Mi chiamo Marco, abito a Besana Brianza, sono nato nel 1961, sono sposato, mi occupo di automazioni, controllo di processo, sono spesso in giro. Perché il fatto è che ognuno di noi apprende in maniera diversa e questo è un dato di fatto. Si sa che è così, non ci si stupisce particolarmente quando si dice che uno ha una memoria fotografica, uno ha una memoria sonora, acustica, e ognuno di noi poi decide di studiare, quando studia o quando semplicemente deve apprendere delle nozioni, in maniera diversa. Chi sottolinea, chi riscrive, chi riempie quaderni riscrivendosi tutto per poterlo conficcare bene nella testa. E tra di noi ci sono persone che hanno semplicemente più difficoltà ad apprendere in maniera naturale, in maniera normale, quotidiana. Hanno un loro metro d'apprendimento. Questa cosa, detta male, si chiama dislessia. Sono le 16:08 minuti, buongiorno a tutti. Questo è il Radio 24, questo è un lunedì qualunque, stavo dicendo 28 di ottobre 2013. Il programma si chiama Voi siete qui e oggi abbiamo aperto come se fossimo stati Essere Benessere, che non c'è più, c'è Cuore e Denari, però come fossi stato una Nicoletta Carbone, una Deborah Rosciani qualunque, per raccontarvi una storia, ovviamente, perché questo facciamo noi. Voi siete qui, racconta delle piccole o grandi storie tutti i giorni alle 16 su Radio 24. Se avete voglia di inviarcela, voi siete qui @radio24.it. La storia di oggi è la storia di Marco, che è la storia di un ragazzino dislessico, o meglio, è la storia di una persona che soffre di dislessia. Il suo pezzo di storia però riguarda quando era un ragazzino e lì non sai ancora, non sai cosa sia la dislessia, nemmeno gli altri lo sanno, questo poi in realtà è un problema, e quindi di fatto sembri solo uno pigro che non ha voglia di studiare. Proprio prima di andare in onda insieme a Tiziano abbiamo trovato un documento che dice che di fatto esiste una legge che riconosce l'esistenza di disturbi specifici di apprendimento, che sono la dislessia, la discalculia, eccetera eccetera, che è una legge dell'8 ottobre 2010, quindi ha 3 anni questa legge, è una roba recentissima. Addirittura i primi passi concreti nella strada giusta erano stati fatti il 5 ottobre 2004, quando il Ministero della Pubblica Istruzione raccomandava agli insegnanti di utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative per agevolare l'apprendimento di bambini e ragazzi dislessici. A questo proposito, dal momento che tempo fa, non mi ricordo se questa stagione o l'altra, forse l'altra stagione, già avevamo parlato di una storia di un bambino dislessico e io a un certo punto mi hanno lasciato sfuggire la parola malattia e qualcuno quel giorno mi scrisse: farò fatica questa sera a spiegare a mio figlio che ha una malattia e non una disfunzione, un disturbo, e allora faccio ammenda immediata e farò a meno ovviamente di chiamarla malattia, è un disturbo dell'apprendimento. La dislessia magari poi ce lo facciamo spiegare meglio da Marco che cos'è e come lui ne è uscito, come l'ha combattuto, come ci convive in realtà, perché non credo che sia una cosa da cui si possa definitivamente allontanarsi. 349-238-6666, non dovete essere dislessici per aver appreso qualcosa in una maniera non ortodossa. Cioè, non avete appreso l'inglese stando sui banchi, non avete appreso il vostro lavoro perché qualcuno ve l'ha insegnato, ma in maniera caotica, per caso, quasi per errore. 349-238-6666 è il numero di SMS per scrivere a questo programma, se no, se siete davanti a un computer, voi siete qui, radio24.it. Voi siete qui Radio 24 al profilo Facebook, se ci avete uno smartphone andate su Twitter e siamo anche lì, voi siete qui R24. Ferruccio ad esempio scrive: sono un autodidatta nel praticare free climber, un santo ha guardato me e mio fratello. Andrea: l'inglese l'ho imparato nel caos dei bar di ogni viaggio, nel caos dei viaggiatori incontrati ovunque. 349-238-6666, il modo diverso con cui avete preso qualcosa, non ortodosso, diciamo così. State lì, ascoltate questa storia, prendetevi 10 minuti, è la storia di Marco. Io sono nato nel 1961 e ho frequentato le scuole elementari nella seconda metà degli anni 60. Allora non lo sapevano i miei genitori e tantomeno la mia maestra, ma ero dislessico. Me ne sono accorto all'età di 24 anni, quando durante il trasloco dalla mia vecchia casa ho trovato dei quaderni delle elementari. Appena li ho visti mi sono detto: ma come facevano a non accorgersene? Finché io non mi sono guardato i miei quaderni, nessuno mi aveva detto che ero dislessico. L'ho capito io da come scrivevo. Scrivere una parola e non saperla più rileggere. Oppure scrivere due parole, albero, dopo due righe scrivere albero e scriverlo in modo diverso e non accorgersene. Ero molto creativo. Ero in grado di costruire un sacco di cose. Ma quando si trattava di leggere e scrivere, era la morte. Non riuscivo. Non riuscivo a leggere ciò che scrivevo. Il mantra «asino di natura chi non legge la propria scrittura» mi si è stampato nel cervello e ciò mi ha portato a una terribile forma di apatia. Le cose sono andate peggiorando, non volevo studiare, ero terrorizzato dalle interrogazioni e dai compiti in classe. Ma ero bravo. A 13 anni ero in grado di produrre qualunque esplosivo, dalla semplice polvere da sparo alla nitroglicerina al fulmicotone. Tiravo missili sulla locale stazione ferroviaria. Sapevo come dimensionare un ugello di un razzo a quanto poteva pesare la struttura di un missile. Prendevo i libri di mio padre, che era dottore in chimica. Decidevo quali esplosivi erano alla portata delle mie finanze e della mia strumentazione e cominciavo a prepararli. Poi la passione per la chimica cessò e mi venne quella dell'elettronica. Intanto sono giunto con enormi sforzi alle superiori. Lì, grazie ad un fornitissimo laboratorio zeppo di componenti, costruivo radioamplificatori, semplici circuiterie logiche. Però, italiano, matematica, storia, erano un disastro. D'altra parte, i miei insegnanti di matematica non riuscivano a capire come un asinaccio come me potesse risolvere funzioni matematiche che mi consentivano di progettare circuiti elettronici. Loro non lo sapevano, ma nella mia testa numeri, formule, moltiplicazioni, divisioni, numeri immaginari diventavano condensatori, induttanze, resistenze, transistor, correnti e tensioni. Così riuscivo a risolvere problemi che altrimenti nemmeno avrei potuto capire. Ricordo che in quarta superiore, datomi per spacciato per la promozione, dimostrai alla mia professoressa di matematica che io il calcolo immaginario lo sapevo davvero. Lo feci mostrandogli il compito in classe di elettronica. Credo che ancora oggi lei non riesca a capire come fosse stato possibile. Ecco, questo è stato il primo lampo. Il secondo è venuto un anno dopo, quando mio padre, disperato dalla mia incapacità di scrivere, mi portò da una professoressa di un liceo classico per farmi fare ripetizioni. Alla prima lezione lei mi disse: Marco, io cosa devo fare con te? Ma quella successiva, appena seduto al tavolo, pronto a fare un tema, mi guardò e mi disse: ho capito cosa ti serve. E caspita, l'aveva capito davvero. Non so come, ma mi ha insegnato a scrivere. Io, quella donna alta 1,60 m, magra come un filo d'erba, leggermente zoppa, oggi l'amo ancora. Nel 1979 sono andato a fare una ripetizione da questa signora, la quale, da un principio dove non sapeva come prenderla, in realtà mi ha insegnato a scrivere, ma in realtà io non so cosa mi ha fatto, soltanto che dopo una settimana ero in grado di scrivere un tema senza fare errori. Nel frattempo ero in psicanalisi perché i miei genitori, disperati, su consiglio di un insegnante, mi avevano portato da questa psicanalista, a cui sono ancora grato. Lei è riuscita davvero a farmi stare bene. E la terza scintilla arrivò solo dopo alcuni anni, quando, avendo ovviamente fallito l'università e già lavorando come tecnico elettronico, per curiosità mi comprai un Commodore 64. Lì mi si aprì un mondo. Il computer era uno specchio perfetto, era il feedback che mi occorreva per controllare la mia dislessia. Ed era grosso modo il momento in cui, scoprendo il mio quaderno delle elementari, diagnosticai la dislessia stessa. L'ultima scintilla, quella davvero fatale, fu quando imparai a guidare un aeroplano, ma questa è un'altra storia. Se qualcuno si fosse accorto delle mie difficoltà e mi avesse aiutato da piccolo, quanto sarebbe stata diversa la mia vita. You call her on the phone, she's ready to meet you. You go into her place and kiss her like a fool. Love is life, is learning what it is to get old. La prima persona dichiaratamente dislessica che ho incontrato in vita mia è stata Henry Winkler, che tutti conoscono come Fonzie. L'ho incontrato un pomeriggio della scorsa primavera, in un giorno in cui lui avrebbe presentato un libro per ragazzi, in cui il protagonista è proprio un ragazzino dislessico che riesce a cavarsela nella vita. Harry Winkler ha l'aria paciosa di chi è passato attraverso un mito generazionale e ne è uscito senza portarne segni. Non si è distrutto con le droghe, non si è dato all'alcol, non ha buttato via la sua vita con il gioco. Recita, fa il produttore e scrive. La gente ancora gli chiede le foto con il pollice alzato e lui non si tira indietro, però ha scritto 17 libri che raccontano di un ragazzino dislessico che agli occhi degli altri combina disastri, mentre quello è semplicemente il suo modo di approcciare il mondo. Immaginate di non riuscire a scrivere, di vedere le parole che si mischiano, di non riuscire a fare lo spelling lettera per lettera perché è un'impresa titanica. Ecco, questo mi ha detto è stata la sua vita fino ai 20 anni. Mi ha raccontato che da ragazzino pensava di essere un disastro, che non avrebbe ottenuto mai nulla. Poi ha scoperto che gli piaceva recitare e da lì non ha più mollato il colpo. Mi ha confessato che anche Fonzi era dislessico, che però era un bravissimo meccanico d'auto. Mi ha raccontato che i libri non li scrive lui al computer perché non riesce, però li detta all'autrice insieme a cui lavora. Dice che torna a casa la sera guidando la sua auto e delle volte può capitare che i segnali stradali gli si confondano nel campo visivo e quindi passa davanti a casa sua senza nemmeno accorgersene. Lui gioca, scherza, è un vulcano, nonostante l'età non più freschissima. Ma quello che fa, lo fa per spiegare che la dislessia non è pigrizia, non è caos, è una disfunzione che semplicemente rende diverso il modo di apprendere, di capire le cose e in fondo di vedere il mondo. The silver walks, you used to shiver and I used to talk. Then we went down to Times Square and ever since I've been hanging around there. È una bella foto estiva quella che ci ha mandato Marco e che trovate sul nostro sito radio24.it alla nostra pagina, voi siete qui. Se avete voglia di assaporare un po' d'estate in questo inizio di autunno, andate a vedervi questa foto. È su una spiaggia, c'è un sole, il tipico sole di metà giornata estivo. Lui è su una polo rossa e tiene sotto braccio sua figlia, credo, che ha una faccia da teppa fantastica, con i capelli bagnati, appena uscito dall'acqua. Marco sorride alla macchina da presa, alla macchina fotografica, macchina da presa, è un po' troppo. E ha la faccia da attore. Marco ha la faccia da attore americano, di quello che fa le parti, non le parti principali, quello che fa le parti secondarie, ma che dici, quell'attore lì è veramente bravo. Pronto Marco? Ciao. Ciao, come stai? Bene, sono al lavoro e un pomeriggio tranquillo, interrotto da una piacevole telefonata. Al lavoro dove? Tu hai un ufficio? No, in questo momento sono in trasferta da un cliente. Sono qui in ufficio, spero che i server non facciano troppo rumore e che mi sentite bene. Insomma, ecco. Perché mi ricordi, Marco, tu esattamente sei un tecnico elettronico, no? Un sistemista informatico. Sì, io ho incominciato con l'elettronica tantissimi anni fa e poi mi sono fiondato nell'informatica, appena scoperto il Commodore 64 che... Come dicevo nel mio racconto, ti ha aperto un mondo praticamente. Mi ha aperto un mondo, sì, mi ha sempre interessato il mio pensiero. Senti, partiamo proprio dal Commodore 64, perché la prima cosa che volevo capire è: tu l'hai comprato quando era già un oggetto vintage oppure quando era il computer No, era proprio. Cioè, appena uscito il Commodore 64, sì, cioè, diciamo, il primo personal computer, diciamo così. Sì, penso al computer, una console per i giochi, era un po' tutto il Commodore 64. E mi spieghi cosa significa che hai capito che lì dietro c'era la chiave per capire il tuo modo di pensare? Perché, come giustamente detto, si mischia tutto nella mia testa, a volte si mischia proprio tutto e non c'è più verso di raccogliere il filo. Un computer è estremamente sequenziale. Sì. Quando tu scrivi un programma, se qualcosa, è un cane da guardia che non ha pietà e quindi ti costringe a mantenere l'attenzione su quello che stai facendo e quindi ti sequenzializza il tuo pensiero. Ok, più o meno ho capito, insomma è l'aspetto logico, fermamente logico del computer quello che ti ha aiutato. Esatto. Sì, è come una stampella, ecco. Ok. Senti, invece gli esplosivi, diciamo, delle due strade che avevi percorso in cui eri uno strafigo da ragazzino, esplosivi e elettronica, hai preso la seconda. Sì, un po' perché, vedi, io penso che i miei esplosivi erano solo rabbia. Ah. E siccome io penso che il cervello funziona a metafore, uh-huh. Quale metafora migliore per di far saltare tutto? Perché far saltare, esatto, era quello. Io non vedevo l'ora di far saltare in aria qualcosa. Ma tu scusami, quindi adesso, Marco, tu saresti in grado di creare una roba della nitroglicerina, dicevi? Ma, diciamo che sono passati quasi 40 anni. Sì, comunque, sì, se mi rimetto, sono assolutamente in grado di costruire questi esplosivi, che non è difficile, eh? Chiaro. Invece arriviamo a un altro aspetto della tua vita che mi sembra fondamentale, e ci arriviamo con un messaggio di Felice da Como che mi ha appena scritto. Sto ascoltando in macchina con Filippo, 10 anni, dislessico, che piangendo mi ha detto: ma allora potrò anch'io pilotare un aereo? Come ci sei arrivato al volo? Vedi, sono sempre metafore. Mettiamo in questi termini: se gli esplosivi era una voglia di distruzione, rabbia, sì. Dove esplodere, sì. L'elettronica è stata la metafora della comunicazione, un amplificatore, una radio, cosa sono se non metafore di comunicazione? Certo. E io avevo un tremendo bisogno di comunicare a quel punto, forse per quello che sono passato dalla chimica all'elettronica, perché avevo bisogno di comunicare. Chiaro, e però come ci sei arrivato al volo invece, all'aeroplano? Volo, sempre stando sulle metafore, sì. Il volo, pilotare un aeroplano, metterlo in terra senza farsi male, non è la metafora di guidare la propria vita in modo corretto e di prenderla in mano. Guarda, adoro questa telefonata tutta in metafora, Marco, ti ringrazio perché siamo veramente letterari oggi. Che tipo di aerei di piloti? Ma io pilotavo moto alianti e alianti, e gli alianti sono, mi vengono solo i brividi a pensarci, è una cosa che se non si prova non si può capire. Cioè il moto aliante è quella specie di ala con un motore dietro? No, il moto aliante è un aliante in grado di volare senza motore. Ero in metafora, Marco, scusa. No, il moto aliante è un aliante in grado di volare senza motore, che in caso di necessità ha l'ausilio del motore. Ah, quindi plana anche senza motore, di fatto? Sì, assolutamente. Oh. Sì, sì. Ok. Senti, Marco, per chiudere invece, mi dai una definizione, perché c'è veramente ancora un sacco di ignoranza, no, sulla dislessia. Mi dici che cos'è la dislessia, in tre parole? Non riuscire a far uscire quello che c'è dentro di te. Ma per incapacità, ad esempio, questa questione del fare fatica a leggere le parole in fila, le parole che si mescolano. Allora, e non è semplice da spiegare, perché anche io non faccio fatica a capire come è possibile, nel senso che tuttora, anche adesso, io scrivo delle cose e arrivo in fondo e sono zeppe di errori, e devo mettermi lì di buona volontà per tirar fuori quello che è il risultato finale. Potrei dirlo in questo modo: è un difetto di input-output. Di input-output, io ti adoro, Marco. In metafora, tu sei il viaggio dell'eroe, l'uomo che prende, parte, scopre il mondo e torna che è una persona migliore. Ti ringrazio molto per la storia e per la telefonata, Marco. In bocca al lupo. Grazie molto a te. Ciao, a presto. Ciao, grazie. Ciao. Ho imparato a suonare la tastiera, scrive Mario da Prato, grazie a un prontuario di accordi su un libretto di canti della Resistenza. Oggi faccio serate al piano bar. Mario, non voglio immaginare che canzoni tu faccia al piano bar in giro per la Toscana. Ho imparato a essere la mamma di Lorenzo provando e sbagliando. Questo immagino che sia, insomma, il mestiere più facile da imparare in maniera non ortodossa, no? I genitori, ci sono manuali, però ogni volta poi ti sconti quella roba lì. Ho imparato il francese sotto le lenzuola. Igino di Roma, guarda, Igino, credo che imparare le lingue attraverso dei fidanzati o delle fidanzate sia un altro metodo poco ortodosso, ma di fatto giustissimo. Per l'ennesima volta c'è Oscar Giannino che cerca di entrare in diretta, e lo saluto perché ha sempre a quest'ora, apre la porta, evidentemente ha un sacco di voglia di entrare in onda, ma tra poco diamo la parola anche lui. Io vi dico niente, vi dico ciao. Scaricate i podcast del programma, che li trovate sul sito di Radio 24. 24 o su iTunes in abbonamento gratuito. Ascoltate le storie e scrivetele. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Pietro Lacorte, Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Marco. La storia di oggi era la sua e anche fuori di metafora. Lui è un punto rosso su una mappa.